si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori e buon Natale, ormai ci siamo, manca davvero pochissimo, eccoci qua, staremo insieme un'oretta per risentire alcune delle storie migliori di Si può fare con le quali vi abbiamo tenuto compagnia nelle ultime settimane. Se volete interagire con noi ci trovate su Facebook, la pagina Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Inizieremo tra pochissimo scoprendo un progetto di welfare alternativo, il progetto Italia ti voglio bene, un'iniziativa promossa dal Centro Antartide di Bologna che si pone un obiettivo ambizioso attraverso gruppi di lavoro nazionali, rilanciare il capitale sociale umano, insomma le potenzialità di ognuno di noi nell'ambito del volontariato, ma non solo, in tutte le nostre città. Poi conosceremo meglio una donna, un'astrofisica, un cervello di ritorno, si parla spesso di cervelli italiani in fuga, ebbene scopriremo una donna titolata, importante, che ha lavorato all'estero e ha deciso di ritornare in Calabria per dare il suo apporto e per scegliere di vivere lì la sua carriera professionale. Poi vi racconteremo una bella storia di buona amministrazione. Il comune di Saracena in Calabria, a fianco ci sono zone sommerse dall'immondizia e purtroppo la cronaca ce le racconta spesso, e lì invece fanno una raccolta differenziata oltre il 70%. Cercheremo di capire qual è il segreto di Saracena. Infine vi riproporremo anche tre storie di innovazione e creatività, le startup Fluentify, Frippi, e poi capiremo anche come la canapa, una tradizione antica, può dare luogo ad una nuova industria, ad un nuovo artigianato 2.0. Vai, iniziamo! Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa avevi da fare? Di tanto importante da non poter proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire? Sì, ti ho capito, di una scuola e poi del resto chissà come sei bravo, ma scusa, tra i vari interessi che hai dimmi che posto mi dai. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Il grande Vasco per presentare questo progetto Italia ti voglio bene, presentato in Senato il 9 settembre scorso, un progetto di cittadinanza. Vogliamo capire un po' meglio di cosa si tratta, perché in questa fase di crisi, non per usare sempre le solite parole, insomma economica, sociale, che stiamo vivendo, anche dal volontariato, anche dalla solidarietà, anche dal no profit può venire un aiuto, delle risorse, braccia anche per fare delle cose, cervelli da non sprecare. Credo che sia questo il senso dell'iniziativa. Ne parliamo al vicepresidente del Centro Antartide di Bologna, Marco Pollastri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Le è piaciuto intanto l'intro musicale? Moltissimo, sì, poi diciamo è di casa, visto che siamo di Bologna, quindi noi ci siamo un attimo esaltati. Fa il volontario da voi, Vasco? No, non ancora, magari lo possiamo arruolare, visto che... Molto volentieri, allora vengo anch'io. Esatto. Senta Pollastri, allora, valorizzare e attivare le energie civiche del paese e affermare una nuova visione di cittadinanza, questo diciamo come sottotitolo un po' della vostra iniziativa Italia ti voglio bene. Io quello che ho capito è questo, cioè promuovere una rete di solidarietà, di volontariato, nel quale però oltre a dare si chiede anche alle persone che partecipano di fare qualche cosa, ricevere e dare, per attivare proprio energie e non disperdere nulla, insomma, questa fase di stagnazione economica e sociale. Sembrano parole grosse, però ci aiuti lei a dire, intanto se ho detto correttamente. Sì, diciamo che è un invito non solamente al concetto del volontariato, ma forse una cosa anche più ambiziosa, perché noi in questo progetto stiamo coinvolgendo anche le imprese. E quindi un'idea di rilancio di una nuova figura di cittadinanza. che sia più attiva, più partecipe, proprio per andare a riscoprire quelle che sono le virtù civiche che forse un po' abbiamo perso e rilanciare quello che si chiama capitale sociale, cioè quel rapporto di fiducia fra i vari attori della nostra società che permettono poi di far sviluppare un paese. Ecco, mi fa un esempio, ci fa un esempio così concreto, perché hai detto già tre cose, tre concetti. Ho parlato del ruolo delle sociali delle imprese, virtù civiche, capitale sociale. Io afferro qualcosa di questi concetti, ho studiato anch'io, però facciamo un esempio concreto. Ah, un esempio concreto, ad esempio le aziende che investono adesso in responsabilità sociale di impresa, o ancora meglio si sta affermando il tema dell'innovazione sociale di impresa, vuol dire un'impresa che svolge un ruolo attivo nella propria comunità in un'ottica di sviluppo proprio della società intera, non solamente. Quindi in un'impresa che investe qualche cosa, noi tempo fa abbiamo intervistato, che so, Loccioni, l'impresa Loccioni famosa, che aveva investito parecchio nella ristrutturazione del letto di un fiume, no? Un'ansa proprio del territorio, e poi altre cose, progetti con la scuola, cioè l'impresa che investe sul territorio, questo è un primo concetto. Sì, però ci vogliono i soldi. Ci sono ad esempio esperienze innovative qua nei nostri territori di imprese che hanno donato ore del proprio personale a fare attività sul territorio, cioè quindi il tecnico, l'operaio, quant'altro era pagato dell'azienda e due ore invece di lavorarli dentro lo stabilimento gli andava a lavorare in comunità. Oppure altre situazioni invece, quando si scende sul sociale, di cittadini che magari si prendono cura del proprio territorio, quindi ripristinano. Sì. Una prima domanda è questa, cioè l'impresa che investe in questa innovazione sociale, in questa responsabilità sociale, o che dona ore di lavoro per progetti sociali nella città, deve poterselo permettere? Cioè, voglio dire, dal punto di vista del conto economico, no? Alla fine come funziona? Allora, ci sono in verità le ricerche dimostrano che le aziende che riescono ad investire sul territorio hanno poi un ritorno in qualità, anche semplicemente di qualità delle persone. Se parliamo del fronte educativo, cioè un'azienda che ha più facilità di trovare vicino a sé persone qualificate, pronte, preparate, sensibili e quant'altro, sicuramente ha un potenziale di crescita molto superiore rispetto a un'azienda che vive in un territorio che è povero di capitale sociale. Cioè, un esempio potrebbe essere un investimento che rientra. Un esempio potrebbe essere non solo il fatto che se tu investi sul territorio, il territorio ti sarà in qualche modo riconoscente, quindi diciamo ti porti a casa forse una fidelizzazione anche da parte dei dipendenti, ma anche far fare, che ne so, ore di volontariato ai propri dipendenti è come una specie di corso di formazione, cioè si migliora la qualità dei dipendenti stessi, per esempio. Esatto, dei dipendenti o dei futuri cittadini, perché investire ad esempio sulla scuola, sull'istruzione però scusi, ti dà un ritorno. Ci faccio una percentuale, che ne so, lì da voi in Emilia Romagna la quota di aziende che praticano, hanno capito questi concetti, 5%, 10%, 30%? Ah no, probabilmente parliamo di, adesso pochi giorni fa mi capitava di parlarne con dei dirigenti di aziende, tra l'altro ne abbiamo parlato anche giù a Roma, c'erano alcuni rappresentanti direttori di aziende, di cooperative, e in verità in questo momento la percezione spesso della responsabilità sociale di impresa è di una sorta di sponsorizzazione, cioè all'azienda si chiedono i soldi e non gli si chiede di essere protagonista, e in questo le aziende un po' si stanno, fra virgolette, secondo me, allontanando un po' dal concetto della responsabilità sociale di impresa, perché vorrebbero dire decidiamo insieme come utilizzare i miei soldi, non mi chiedete. Quindi probabilmente la percentuale di aziende, perché poi il nostro paese è caratterizzato da più piccole e medie imprese che da grandi aziende, hanno meno capacità di investire su questo, però in verità se uno poi va a scavare ci sono tante piccole aziende anche sul nostro territorio, e quindi io parlerei di percentuali forse anche più alte, anche dell'artigiano che ha dato una mano magari per aggiustare la scuola della propria comunità, e quella lì è già un'azione di responsabilità sociale d'impresa, non è necessario per forza investire denari,

E abbiamo, siamo partiti così, scherzando con questo Nedo and the Bellos, un gruppo per lo più sconosciuto, Cervello in fuga. Insomma, si parla molto di questo tema, in questo caso si fa anche un po' di ironia. Lei lavorava dove? In Germania? Sì, lavoravo in uno degli istituti Max Planck che si trovano vicino a Monaco, in Germania, in Baviera. Il Max Planck Institute, solo il nome mi fa venire un po' di... cioè ti fa sentire che sei impreparato, direi. Sì, subito. Esatto. Già uno dice, oddio, cosa faranno al Max Planck Institute? Di cosa si occupava lì? Lì studiavo esplosioni di stelle e le galassie che ospitano queste esplosioni stellari. Insomma, non proprio pizza e fichi. Una ricerca pura, ricerca applicata, che tipo di... No, totalmente pura, non ha nessun effetto, diciamo, diretto sulla vita degli esseri umani, però comunque soddisfa la nostra curiosità, cioè capire, certo, da dove veniamo. Sono poi, ora dico da ignorante, la ricerca pura, uno dice perché fare ricerca pura se non per la curiosità, invece poi a volte sono proprio anche quei filoni che possono aprire nuova luce, farci capire delle cose, magari vedere le cose in modo nuovo, e se non si fa questa ricerca pura poi non si può fare neanche la ricerca quella che magari interessa di più alle imprese, alla gente, alla tecnologia, alle nuove scoperte, eccetera. Come è maturata la sua decisione di invece di tornare, insomma, dal Max Planck Institute tedesco in Calabria? Io ho studiato in Calabria, sono nata e cresciuta in Calabria, e quindi, diciamo, l'idea, così, il punto di riferimento dell'Università della Calabria, dove ho studiato, ce l'ho sempre avuto presente. Il desiderio, diciamo, di entrare è stato, diciamo, una decisione comune, diciamo, bilaterale. Cioè, il Dipartimento di Fisica mi ha proposto qualche anno fa, sono interessata. E lì è iniziato l'iter burocratico, però comunque attraverso questo programma che si chiama chiamata diretta per meriti scientifici, per Chiara Fama si chiama il programma, sì. Che permette di offrire delle posizioni in Italia a persone che hanno lavorato all'estero e vogliono rientrare, evitando tutte le difficoltà burocratiche tradizionali, tipo il concorso, le commissioni, eccetera eccetera. Quindi, ma è per gli italiani che lavorano all'estero o è per, sì, chiunque lavori insegna all'estero? Penso che sia solamente per gli italiani. Cioè, sì. Gabardini è riuscito a fare una domanda a cui non sa rispondere Sandra Savaglio, è la nostra super professoressa di fisica. Beh, questo. No, ero incuriosito se fosse come un sistema. Come sei simpatico. No, le chiedo scusa, guarda, io sono lo stupido dei due, quindi ci mancherebbe altro. Ero incuriosito se fosse un sistema, diciamo, semplicemente solamente per gli italiani, appunto per i cosiddetti cervelli in fuga, quindi per farli tornare, o se era un sistema anche per avere, diciamo, dei professori stranieri in Italia. Va bene, questo non lo sappiamo. Va bene, non importa. Sandra non lo sa, non importa. No, credo che sia solamente per gli italiani. Tra l'altro non, sì, sono pochi, ci sono, diciamo, sì, i colleghi che rientrano grazie a questo programma. Sono comunque meno di quelli che l'Italia di cui l'Italia avrebbe bisogno, ma comunque, insomma, è un programma che funziona. Perché chiaramente noi abbiamo sia il bisogno di attirare ricercatori dall'estero, che siano anche stranieri, così come i nostri italiani vanno all'estero, abbiamo bisogno di attirare gli stranieri in Italia. Sì, ci sono anche dei progetti finanziati su questo, in particolare proprio perché l'Italia ha un problema di esportazione forse eccessiva di laureati e ricercatori, di farli rientrare. Quindi, insomma, sono un po' queste le vie. Facevo questa domanda in realtà non tanto per chiedere questo, ma per capire se l'unico modo, diciamo, per tornare in Italia era questa cosa per Chiara Fama, come l'ha chiamata lei. Quindi se bisogna essere famosissimi per poter essere richiamati in Italia. No, c'è la via tradizionale, cioè aspettare che ci sia un posto di lavoro offerto, fare il concorso, partecipare al concorso e aspettare il risultato. Come fanno tutti gli altri, diciamo. Sì, mi dispiace tantissimo per gli italiani che devono seguire la via tradizionale, che è sicuramente una pena. Perché fanno secondo delle regole vecchissime che sono veramente indietro con i tempi moderni. Senta Sandra, ma tornare appunto dopo aver avuto un'esperienza di così alto livello in Germania, insomma, il top del top, no? Un laboratorio, un centro di ricerca come il Max Planck in Germania, in un paese così, tornare in Calabria all'università a fare l'insegnante, insomma, si è pentita, no? No, allora non è esattamente così, cioè non vengo qui per fare l'insegnante, anche per insegnare agli studenti sicuramente, ma comunque per fare ricerca in un dipartimento che funziona benissimo e che come produzione scientifica è impatto internazionale tra i film in Italia, quindi diciamo che è stato un aspetto di carriera, tutto non avevo... Oddio, non la sentiamo più molto bene, Sandra. Sì, adesso forse la sentiamo di nuovo. Vada. Pronto? Sì, ecco, eccola, sì. Da dove devo ripetere? No, poi andare, stavi dicendo che non è solo non sei solo lì ad insegnare, ma anche in un'università che fa ricerca anche ad alto livello. L'Università della Calabria fa ricerca, quindi ad alto livello internazionale? Sì, il Dipartimento di Fisica sicuramente è riconosciuto in Italia, tra i primi in Italia e anche a livello internazionale, sì, c'è ricerca di altissimo livello, manca diciamo il settore di astrofisica un pochino, perché le persone che si occupano di astrofisica e astronomia si occupano specialmente della ricerca della fisica del Sole, okay. Quindi diciamo che io porterò qualcosa di nuovo, di più al Dipartimento di Fisica. Ecco, ma ci sono delle differenze tra come funziona la ricerca in Germania e in Italia? Noi sappiamo per esempio che si investe troppo poco, pubblico e privato, spesso nelle università c'è anche un po' di diffidenza rispetto a investimenti privati, eccetera eccetera. Qual è la differenza principale con la Germania? Allora, in Germania si investe tanto di più, diciamo come ordine di grandezza potrei dire un fattore 5, no? Rispetto all'Italia, manca il finanziamento dal settore privato, e poi se una persona in Italia vuole fare ricerca lo fa solamente negli istituti di ricerca oppure all'università, quindi non c'è un grandissimo investimento della ricerca nel mondo dell'industria come succede in Germania. Ecco, quindi una carenza non è soltanto diciamo nel settore pubblico secondo lei, ma anche proprio da parte dei privati. Sì, un laureato in fisica in Italia o insegna nelle scuole oppure rimane nel mondo della ricerca e dell'università. In Germania invece può essere assorbito dall'industria, perché un laureato in fisica ha un laureato dottorato, oggi dovremmo dire, cioè uno studente che ha un dottorato in fisica, può essere impiegato nel mondo dell'industria perché ha una preparazione vasta. È molto flessibile rispetto per esempio agli ingegneri, cioè uno che ha un dottorato in fisica può fare qualsiasi cosa nel mondo scientifico. Certo, ma come mai secondo lei in Italia c'è questa carenza diciamo di investimenti privati nella ricerca? Perché i privati non ci credono oppure perché magari le università oppure diciamo il mondo universitario, la cultura universitaria italiana ha paura, a volte si sente anche di dire non privatizziamo la cultura, cose di questo genere, e che possono come dire, rendere più difficoltoso l'ingresso dei privati dentro piani di ricerca che poi devono mettere insomma in qualche modo un piede dentro l'università. Cosa ne pensa di questo? Sicuramente la gestione è abbastanza tradizionalista, per cui cambiare le cose non è facilissimo. In Germania hanno capito invece che investire vuol dire crescita, cioè investire nella cultura vuol dire crescita, chiaramente lo fanno e assorbono anche tantissimi scienziati dall'estero. E poi c'è un mercato molto più flessibile in Germania rispetto all'Italia, per cui fino a qualche tempo fa un laureato poteva entrare nell'università con un posto fisso, magari non avendo tantissimi titoli. Adesso non ci sono più posti, quindi questo problema non si pone più, però comunque le università sono in Italia piene di persone che diciamo un livello non esattamente adeguato rispetto all'università tipo la Germania. Però nonostante questo voglio dire che il livello della ricerca in Italia, sì, per esempio nella ricerca pura, non applicata, è comunque molto alto, perché esiste un esercito di precari, cioè quindi parliamo dopo il dottorato diciamo tra i 30 anni, 40, 45 anni, che lavora tanto, che produce tanto e che costa molto poco.

discutere la scuola delle principesse, da cui questa Princess of China di Coldplay, a Trento, organizzata da un'ex cantante lirica, Livia Farnese, che è qua con noi. Buongiorno. Buongiorno. Fa discutere perché si insegna canto, danza e fin qua bella calligrafia inglese e fin qua rudimenti per l'ora del tè, buone maniere, gran ballo finale. Insomma, qualcuno dice che dietro a questa cosa c'è una voglia di far ritornare le bambine a... nel recinto rosa della... No, assolutamente no. Allora, io sono convinta da sempre che le buone maniere diventano buone quando sono un modo di essere, non un modo di apparire. E la gentilezza è un valore molto bistrattato in questo periodo. È vero. Giusto. Le buone maniere non sono una prigione di convenzioni, secondo me. Sono un modo per far sentire le persone benvenute nella propria vita. Tutti noi siamo più contenti se abbiamo a che fare con persone gentili, io credo. A quando però allora un corso per principi? Azzurri. Allora, esatto, nel senso primi. Che le buone maniere un po' per tutti, sì, non solo per le bambine. Sì, però io credo che una proposta del genere dovrebbe essere rivolta ai bambini, ai maschi, dovrebbe arrivare da un uomo. Da un uomo. Cioè da una figura con cui ci si possa più facilmente identificare nella fascia di età a cui è diretta questa cosa, cioè dai 5 agli 11 anni. Maschi dai 5 agli 11 anni seguono l'esempio di papà e la figura di riferimento è quella, non è quella femminile. Quindi a me farebbe molto piacere che un uomo prendesse la stessa iniziativa e insegnasse ai ragazzini, ai bambini, che le buone maniere non sono una cosa da femmine, appunto, ma sono un valore universale. Quante bambine si sono iscritte a questo corso? Cioè, c'è domanda per questa... Sì, abbiamo già avuto delle domande, i corsi sono a numero chiuso, c'è ancora qualche posto disponibile per iscriversi. Nel caso avessimo richieste superiori ai posti, possiamo attivare un secondo corso. Mm-hmm. Ma che tipo di famiglie arrivano? Cioè, gente normale o davvero qualcuno che ha delle velleità? No, sono assolutamente... Io ho ricevuto telefonate da mamme e anche da papà che sono persone assolutamente normali e comuni e che hanno trovato questa cosa, che tra l'altro viene proposta in modo molto giocoso, perché anche l'immagine che è stata scelta è un'immagine ironica, è un'immagine che io credevo tra l'altro che l'ironia si fosse colta bene, invece evidentemente oltre a un corso di buone maniere forse bisognerebbe fare un corso anche di senso dell'umorismo, perché è una merce, è molto difficile in questo paese. Sì, perché sono stata accusata di voler portare le bambine all'era vittoriana o alle principesse disneyane. Se io penso a una principessa, invece, a me viene in mente Elisabetta I d'Inghilterra, per esempio, che era una donna di modi squisiti, ma non dimentichiamoci che ha sconfitto l'invincibile armata spagnola, e vorrei ricordare anche senza l'ausilio di un principe azzurro, perché l'ha fatto perché da sola. Sì, era anche una molto astuta, esatto, perché mia moglie, per esempio, dice sempre a mia figlia che ha 3 anni, che ovviamente vive nel mito delle principesse, guarda, certo, guarda, le principesse sono stupide, tu devi diventare un ingegnere. Le dici sempre così. È la verità. Le principesse possono non essere sono anche stupide. Intelligenti. Possono essere anche, ma ce la ricordiamo, Caterina di Russia, Cristina di Svezia. Il periodo elisabettiano è il periodo più florido della storia d'Inghilterra. Alcuni degli ingegni più brillanti della storia dell'umanità sono fioriti all'ombra del trono di Elisabetta I. Sì, adesso ormai siamo giustamente nel 2014, giustamente lei dice c'è dell'ironia e mi sembra certo, che sia molto certo, precisa l'ironia. Ma Michelle Obama, che è una persona estremamente garbata e cortese, io ho appena passato un periodo a New York e ho incontrato delle persone che la conoscono personalmente, hanno detto che la sua più grande dote è quella di mettere a proprio agio qualunque persona le si trovi davanti. Questa è una grande caratteristica. È una grande, assolutamente sì. Le buone maniere, tra l'altro, sono uno strumento che mettono una persona in grado di essere a proprio agio ovunque. Viva le buone maniere! Allora, grazie. Do you speak English? Fabri Fibra, do you speak English? Lo chiedo a te, do you speak English? Do you speak English? Oh, voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. A Brighton per chiedere a qualcuno come va, si domanda e si risponde, ah, è mate. Se invece una persona ti guarda male, ti vorrebbe picchiare, dice, ah, è mate. In Inghilterra se vuoi avere un conto in banca basta solamente dire alright mates. E quando invece non hai voglia di parlare basta solo che tu dica alright mates. In Inghilterra le ragazze bevono tutta la sera. In Inghilterra le ragazze la danno la prima sera. E quando poi si rivestono alla fine del gioco se ne vanno e non ti rompono il cazzo il giorno dopo. In Inghilterra è tutto più veloce. In Inghilterra se c'è l'erba non finisci in croce. Quando fumi questa merda ti va via la voce. When you smoke this shit ti va via la voce. Say what? Big fish, do you speak English? Le belle storie cominciano a conquistare anche la televisione. Li abbiamo visti martedì sera in televisione, appunto, di martedì con Floris. Poi ne aveva parlato, anzi prima, il Corriere Innovazione. La loro storia è quella di alcuni giovani italiani andati a Londra, dove sono riusciti ad aprire un'azienda, una piattaforma, si chiama Fluentify, per studiare e approfondire l'inglese. Adesso annunciano di voler tornare in Italia per ingrandirsi. Ne parliamo con Giacomo Moiso, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Cofondatore e amministratore delegato di Fluentify.com. Di cosa vi occupate? Noi facciamo inglese, Fluentify è l'inglese, ma l'inglese è quello vero, diciamo sempre. Cioè sì? L'inglese di cui abbiamo bisogno per lavorare con stranieri o banalmente per viaggiare meglio, per non dover sempre solo andare nei ristoranti con le figurine sul menù. E quindi siamo partiti da un concetto semplicissimo, sì, e cioè che per migliorare una lingua, come appunto l'inglese, una lingua straniera, l'importante è parlarla. Bisogna avere il coraggio di provarci, di buttarsi e chiaramente di sbagliare per poter dire di saperla bene. E quindi abbiamo inventato un metodo naturale ma soprattutto efficace per migliorare l'inglese parlando con madrelingua selezionati. Okay. E tutto questo avviene online, come ricordavate siamo partiti da Londra e adesso però siamo rientrati in Italia facendo un investimento noi, andando a investire aprendo un hub di sviluppo su Torino. Ecco, questa è una parte interessante è la parte interessante forse a questo punto della vostra storia. Ho detto la televisione si accorge delle belle storie, ci fa piacere, perché io ho visto la tua intervista, Giacomo, qualche sera fa, avevo letto anche la notizia sul Corriere Innovazione e colpisce la chiarezza di idee, la determinazione tua, vostra, di ragazzi che però siete partiti per andare a Londra con un sogno. Non perché siete andati a Londra? Cioè non è che sapevate che avreste costruito poi un'azienda, insomma tutto è nato anche un po' per caso forse. Sì, chiaramente sì, noi abbiamo, intanto siamo quattro fondatori e due di noi, quindi io e Andrea, abbiamo studiato a Londra ed è forse anche un po' per quello che siamo partiti da lì, ma in realtà abbiamo deciso di far nascere Fluentify a Londra perché l'ambiente imprenditoriale è molto attivo, molto affascinante per ragazzi come noi. Faccio due esempi velocissimi. Sì. La scorsa settimana ho ricevuto un'email dall'Agenzia delle Entrate inglesi dove mi invitavano a partecipare a un webinar, quindi a un seminario online per imparare a gestire tutta la parte fiscale della nostra azienda. Questo in forma del tutto gratuita, chiaramente. Cioè quindi un invito a entrare meglio nei meccanismi. Esattamente. E chiaramente una cosa del genere è molto semplice, perché poi in definitiva appunto è un seminario online, permetterà a una realtà come la nostra di risparmiare migliaia di euro, quindi ancora di più in pound ogni anno. Inutile sottolineare come invece magari in Italia quando arriva una comunicazione all'Agenzia delle Entrate c'è sempre paura e basta. E questo infatti è un fatto sicuramente sbagliato, un rapporto sbagliato con il fisco. Dunque a Londra perché sapevate, per esserci stati, per averci studiato, che era un ambiente favorevole all'impresa e poi lo sviluppo di questa impresa grazie a dei capitali che sono arrivati da chi? Da Londra, è un investitore privato che vive a Londra con origini italiane, Stefano Marsaglia, che però vive oramai da decine di anni in Inghilterra, che ha creduto nel nostro progetto proprio perché lui in prima persona ha provato cosa significa dover imparare una lingua straniera sul campo, una volta che sei lì e che magari si è già iniziato a lavorare. Questo chiaramente l'ha convinto sull'importanza di avere una realtà come Fluentify, e ha deciso lui per primo intanto di di investire del denaro nel nostro progetto, ma soprattutto di mettere a disposizione tutto quello che è il suo network, le sue conoscenze, le sue capacità. E fin qua sarebbe una, diciamo, una buona storia a metà da un certo punto di vista, perché sarebbe la storia di alcuni italiani che si trovano a Londra e aprono un'azienda e anche di un certo successo. Però noi sappiamo che c'è il tema della fuga dei cervelli, perché non si riesce a realizzare in Italia queste imprese, eccetera, eccetera. Io personalmente credo che un'esperienza all'estero e insomma anche decidere, per esempio nel vostro caso, una piattaforma per lo studio dell'inglese, di aprirla a Londra, è una cosa forse anche naturale. La buona notizia si completa quando decidete di tornare a investire e a crescere proprio in Italia. Perché? Sì, esatto, l'abbiamo fatto per un motivo semplicissimo, cioè che le realtà come la nostra, come Fluentify, hanno successo solamente se si ha la capacità di coinvolgere le persone giuste. In una startup solitamente, anzi sempre, ci sono poche risorse e queste risorse vanno gestite molto bene, e non c'è investimento migliore delle persone. Ci stavamo quindi guardando intorno per riuscire a coinvolgere dei talenti, chiaramente noi abbiamo bisogno di sviluppatori per portare avanti la nostra piattaforma web, per sviluppare un'app da smartphone. E quindi ci siamo però resi conto che i talenti migliori, i migliori sviluppatori software, tra i migliori ci siamo proprio noi italiani. Sono talenti che vengono formati dal nostro Politecnico di Torino, di Milano, e quindi abbiamo deciso di provare a coinvolgerne il più possibile per appunto avere persone capaci e coinvolte sul nostro progetto. Per farlo avevamo due soluzioni. Sì. La prima era quella di attirare queste persone a venire con noi in Inghilterra. L'altra è stata l'idea che ci è piaciuta maggiormente, chiaramente perché siamo italiani, ma poi anche per poter davvero attingere dalle realtà locali. Noi abbiamo deciso alla fine di investire su Torino, ma perché il Politecnico di Torino ha davvero un ecosistema molto sviluppato, molto di successo, dove ci sono anche degli sì, credo che ci sia anche un record di start-up incubate a Torino, grazie sicuramente anche al Politecnico. Anche, numeri anche importanti a Torino, certo, certo. Esatto. E quindi l'abbiamo fatto per questo motivo, per riuscire appunto a coinvolgere persone capaci e innamorate di quello che stiamo facendo. A questo punto però ti voglio fare una domanda, Giacomo, ed è questa. Il governo ha presentato la legge di stabilità, dove uno degli interventi più grossi è quello del taglio dell'IRAP, 5 miliardi di IRAP in meno per le aziende, l'imposta che si paga sui dipendenti da parte delle attività produttive. È naturalmente una buona notizia anche per voi? Domanda. Allora, io credo che intanto noi avevamo deciso di rientrare, di investire in Italia ancora prima che questo venisse confermato. Certo. Io sinceramente credo che tutto ciò che va nella direzione di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro e allo stesso tempo ridurne il costo, per una realtà come la nostra, per forza è una buona notizia. Perché intanto, appunto, come dicevamo, l'asset principale di una startup sono le persone, e se riusciamo a rendere il costo delle persone più inferiore, chiaramente è una bella notizia. Quindi sì. Benissimo. Pensi che questa cosa possa, voi avete deciso di farlo prima dell'annuncio del taglio dell'IRAP, perché qualcuno dice ma magari ci saranno le aziende che si metteranno in tasca i soldi legittimamente risparmiati da questo taglio dell'IRAP, non è detto che ci siano nuove assunzioni. Tu che adesso sei un imprenditore da poco, un giovane imprenditore, pensi invece che questa cosa possa incentivare altre, mi sembra che tu abbia già risposto di sì, insomma, altre aziende ad assumere? Assolutamente sì, perché appunto la domanda sarebbe da fare al contrario, perché no? A questo punto non ci sono quasi più scuse per non assumere, per non coinvolgere persone. Se un'azienda ne ha bisogno, assolutamente sì, chiaramente le cose saranno di molto più semplificate. Va bene, grazie mille Giacomo Mogio, amministratore delegato di Fluentify.com, in bocca al lupo per la vostra attività. Crepi, grazie, buona giornata. She stood in the doorway.